later than you think. La fabbrica di polli si sente da lontano, il sordido richiamo di una vita in batteria. Dietro quei cancelli che cosa nasce prima? L'uovo, la gallina, le penne o i calamai? La fabbrica di polli produce, mentre nella fabbrica di polli la vita riprende il suo terribile ciclo, Kappa e Drago parlano di intasamenti. Drago, oui. C'è il water intasato. Cosa? Il water intasato. C'è per forza, da quando è finita la carta igienica state usando sempre tovaglioli di carta, quelli pesanti. Ma scusa, in mancanza d'altro vanno benissimo. Eh sì, bravo te, ma lo sai che tovaglioli di carta intasano gli scarichi? Mai saputo. Praticamente si crea una meba di carta, no? D'accordo. Che riempie completamente il tubo di scarico, e allora si blocca tutto. Ah, bravo, bravo, Pollo. Adesso si improvvisa anche idraulico, fra un po' elettricista. Ciula che non sei altro. Non sto mica dicendo delle cose a caso, eh. Guarda che così, mai gettare tovagliolini di carta nel water. E quindi cosa si fa? È tutto con le mani. Intanto potreste cominciare col comprare della carta igienica. Sì, però per liberare lo scarico, come si fa? Allora, Pollastri, io non vedo altra soluzione che filarsi un guanto da cucina e poi ficcare il braccio giù fino in fondo la meba di carta. Presto! Tenente Drago! Si infili immediatamente un guanto da cucina e fichi il braccio giù nello scarico fino alla meba di carta! Ma mi fa schifo! Tenente Drago! Non si faccia impressionare! È solo acqua! Sì, ma mi fa schifo lo stesso! Tenente Drago! Le ordino di non vomitare! Ci sto provando! Spinga più in fondo! Più in fondo! Allora, la sente la meba di carta? Perché? Che verso fa? Tenente Drago! La sente con la mano! Veramente... Aia! Aia! Tenente Drago! Cosa succede? La comandante Kappa, ma la meba di carta ha i denti! Che cosa sto dicendo, Tenente Drago? È impazzito! Aia! Forza! Tiri fuori il braccio perentoriamente! Aia! Tenente Drago! Ha un coccodrillo albino attaccato alla mano! Presto! Mi consegni immediatamente lo spray repellente per coccodrilli albini! Ma lo può prendere solo lei, visto che ho un coccodrillo albino attaccato alla mano? Stavolta ha ragione, Aya! Dove l'ho messo? È nella tasca interna della giacca, quella con la cerchiera! Aya! Eccolo! Faccia presto, comandante Kappa! Tenente Drago! Sì. Ma qui c'è scritto! Spray repellente per coccodrilli albini! Non albini! Sarà un refuso! Presto! Spruzzi lo spray! Tenente Drago! Guardi! Il coccodrillo albino si è trasformato in un coccodrillo alpino! E canta ubriaco bevendo grappa distillata illegalmente! Il mio bel petto andrà alla patria. Cresta andrà in padella, il becco invece in farina anima, e le mie piume a fare i materassi, i vostri culi grassi faranno. La fabbrica di polli. Pollastri, Qui la situazione internazionale sta degenerando, Io vado in sbattimento. La situazione internazionale. Hai ragione, Paul. Sì, i talebani si sono riorganizzati e raggiurano gli americani puntano i missili contro la Russia picchia i gay colpevolizzano gli etero diventano gay, insomma è un disastro. Perché talebani e gay talebani? No, io parlo della situazione aviaria. I policinesi stanno tornando a invadere l'Europa. Con la bufola dell'influenza aviaria li avevamo bloccati per un po', no? Ma adesso tutto sta tornando come prima, E questo sì che è un bel motivo per andare in sbattimento. Che poi i policinesi sono tutti strani. No, adesso ricomincio. Questi qui non legano con nessuno. Poi arrivano sempre pieni di contanti e ti coprono il negozio in 448. Si sposano sempre tra di loro. E poi sapete una cosa? Non muoiono mai. Ma tu come fai a saperlo? Ma è una leggenda metropolitana, Pollo. Saranno 20 anni che si sente dire. Ma no, non è una leggenda, è tutto vero, Guarda, questi qui arrivano qui legalmente, no? E poi, piuttosto che farci scoprire, se muoiono il paletto lo tagliano a pezzi e poi lo servono al ristorante. Vabbè, tipo il pollo alle mandorle, lo volete clandestino o regolare? No, perché ne abbiamo due tipi qui. Sì, allora, se poi arrivano le brutte malattie, sono fatti i vostri. Ma brutte malattie... Non prendetevela con noi poli italiani, perché noi possiamo andare a cresta alta, questo lo sapete, I nostri polli possono andare a cresta alta. Ma quali brutte malattie? Pare che i clandestini non passano le visite mediche, Ma hai appena detto che l'influenza aviaria è una bufala. Quali malattie? Quali brutte malattie? No, non la aviaria, ma ce l'hanno veramente. E no, questi qui c'hanno altre brutte malattie, quelle che non ci dicono. Questi qui, i clandestini, no? Non passano le visite mediche. E arrivano come sono, Come sono? Arrivano qui da chissà dove. Io non sono mica razzista. Ma no, mica. No, non si direbbe mai. E non ho neanche paura del diverso. No, non ne avevamo dubbi, guarda. Però dico che se qua dentro fossimo tutti italiani, tutti poli italiani, magari anche tutti di una zona ben definita, allora sarebbe meglio. Ecco, magari tutti di Milano. Ma no, di Milano, Lodi, giù di lì. Dai, ma Paolo, ma sembri un leghista. Ma mi stupisci. Negli anni 70 non c'erano mica i leghisti. Infatti. Ma io mica sto parlando di politica. Io parlo così in generale. Ma Paolo, tutto è politica, lo sanno anche i sassi, lo sanno anche i polli. Smettila di mentire a te stesso e ammettilo. Io sono leghista dentro. Ma no! Sì, e ti stanno sui maroni, i terun, i neger e i cinesi. Cinese solo birrerie, Paolo Sarpi solo cineserie, il libero mercato che si regola da solo tutte fesserie. Quando i soldi studieranno l'urbanistica e quando i soldi avranno cognizione architettonica, quel giorno il tuo quartiere sarà bello, ma per adesso vivi come un pollo. Pollo. Gli Aztechi, i Maya e gli Incas, quando i primi spagnoli sbarcarono sulle loro coste, pensarono che fosse l'inizio di una nuova era di pacifica convivenza. E invece era l'inizio di... la carneficina colonialista! Fatto male? Che cosa succederà adesso? Quali paralleli ci sono tra la carneficina colonialista degli spagnoli in America e l'invasione dei polli cinesi dopo la fine dell'emergenza influenza aviaria? Non abbiamo più molto tempo per rispondere a tutto, ma ci proveremo domani a mezzanotte su Radio 3 con l'ultimo doppio allestimento de... La fabbrica di polli produce, non chiude, non chiude mai. La fabbrica di polli produce, non muoce quasi mai. La fabbrica di polli, un programma di Kappa e Drago prodotto dall'Istituto Barlumen. La fabbrica di polli è trai.it, barlumen.com. Attenzione, domani 15 giugno, puntata extra large di Fabbrica di Polli. Inizio al solito a mezzanotte, ma si va avanti a oltranza.